l'eco del silenzio. Silenzio. Un'idea di Lucia Capparrucci. Da Lucia Capparrucci buongiorno e benvenuti all'Eco del Silenzio. La prima notizia che vi segnalo, che non è nemmeno una vera e propria notizia, è il trasferimento, diciamo, di Peace Reporter nel nuovo sito di E il Mensile Online, il mensile di Emergency. Quindi per tutti coloro che seguivano le notizie su www.peacereporter.net, il nuovo indirizzo a cui andare è www.eilmensile.it. E proprio da qui arrivano le notizie di oggi. Paraguay, emergenza alimentare, del 20 gennaio 2012. Il governo del Paraguay, piegato da un'emergenza alimentare a causa di una prolungata siccità, non può disporre di una donazione dell'Unione Europea di circa 34 milioni di euro perché il congresso paraguayano è in ferie. La denuncia è partita dal ministro dell'economia Dioniso Borda, che ha invitato i parlamentari che stanno ancora godendo dei 2 mesi e mezzo di vacanza, garantiti dalla Costituzione, a riunirsi il prima possibile per approvare l'accettazione della donazione, tra cui uno della Banca Interamericana di Sviluppo. Avremmo in totale 300 milioni di dollari necessari per affrontare la siccità, denaro con cui potremmo riprogrammare le nostre politiche per combattere la povertà ed altre istanze urgenti, ha dichiarato Borda. L'emergenza alimentare di 90 giorni è stata decretata lo scorso martedì, dopo un prolungato periodo di siccità. Le ultime piogge intense hanno avuto luogo il 19 novembre. Le comunità coinvolte dell'emergenza sono 313. Entro 10 giorni il Ministero dell'Agricoltura fornirà i dati relativi ai danni subiti dalla produzione agricola. In seguito procederà alla distribuzione gratuita di sementi di mais, fagioli e manioca. Tuttavia, le grandi aziende produttrici sono state escluse dagli interventi statali per problemi di bilancio. Il Paraguay è il terzo produttore di soia dell'America Latina. Da www.eilmensile.it. La crisi morde, IKEA fa record di fatturato, del 20 gennaio 2012. I numeri che certificano il record di incassi per il bilancio 2010-2011 dicono che in tutti i continenti in cui è presente il discusso colosso svedese, ricordiamolo, è la catena di distribuzione di mobili più grande del mondo, si è registrato un vero e proprio boom dei profitti. Un aumento del 10,3% che porta il profitto netto a 2,97 miliardi di euro. Le entrate sono aumentate del 6,9%, raggiungendo la cifra record di 25,17 miliardi di euro. Abbiamo guadagnato quote di mercato in più o meno tutti i mercati, ha detto il capo esecutivo IKEA, Michael Olson. L'azienda progetta di investire 3 miliardi di euro in negozi, stabilimenti e centri commerciali, così come nell'espansione dei suoi parchi eolici e nelle fonti di energia solare. Alla fine di agosto IKEA aveva 287 punti vendita in 26 paesi e 131.000 dipendenti. Una conseguenza certamente della crisi economica, che ha depresso le possibilità di spesa dei cittadini europei e statunitensi a causa dell'aumento dei prezzi, dello stazionamento dei salari e delle misure di austerità dei governi. Secondo l'azienda, è normale che un mercato di consumatori più attenti ai costi, in tempi economicamente difficili, sia maggiormente attratto dai bassi prezzi dei mobili e degli accessori per la casa IKEA. L'eco del silenzio. Silenzio. Da www.eilmensile.it. Kosovo. La Serbia chiede risposte sul traffico d'organi. Del 20 gennaio 2012. La Serbia non si arrende. Il governo di Belgrado ha ribadito oggi, 20 gennaio 2012, la sua richiesta di un'inchiesta internazionale imparziale in merito al presunto traffico di organi avvenuto in Kosovo durante il conflitto del 1999 tra gli autonomisti albanesi e l'esercito federale. Nei colloqui tenuti a Belgrado tra il governo serbo e Bjorn von Sydow, capo della Commissione d'Affari Politici del Consiglio d'Europa, il primo ministro serbo Mirko Cevtovic ha sottolineato l'interesse a partecipare all'indagine da parte dei rappresentanti delle Nazioni Unite. In un rapporto del parlamentare svizzero Dick Marty, approvato lo scorso anno dal Consiglio d'Europa, si è detto che dietro il traffico di organi ci sarebbe l'esercito di liberazione del Kosovo, UCK, e che le vittime erano per lo più prigionieri serbi. sempre da www.eilmensile.it, Italia, armi leggere, in crescita l'esportazione. 20 gennaio 2012. Nel biennio 2009-2010, l'Italia ha esportato oltre 1 miliardo di euro di armi leggere ad uso civile, con un aumento del 10% rispetto al biennio precedente. I dati emergono dal rapporto diffuso oggi, realizzato dall'Istituto di Ricerca Archivio di Sarmo, dal titolo Armi leggere, guerre pesanti. Le esportazioni sono per la maggior parte dirette verso Stati Uniti e paesi dell'Unione Europea, ma un aumento significativo dell'importazione di armi dall'Italia ha registrato anche l'Asia. Il resoconto denuncia come il nostro paese abbia venduto armi comune anche in Africa e in Medio Oriente, in paesi dove i sistemi politici sono stati capovolti dalle rivoluzioni popolari. In particolare, emergono dal rapporto paesi sottoposti a embarghi internazionali sulle forniture di armi: Cina, Libano, Repubblica Democratica del Congo, Iran, Armenia, Azerbaijan, e paesi in cui sono in atto conflitti e in cui avvengono gravi violazioni dei diritti umani: la Federazione Russa, la Thailandia, le Filippine, il Pakistan, l'India, l'Afghanistan, la Colombia, Israele, Congo, Kenya, Filippine e così via. Ciò ha origine da una grave contraddizione legislativa, a causa della quale le procedure e i divieti previsti per le armi comuni da sparo sono diverse da quelle previste per i trasferimenti di armi ad uso militare. L'ONU ha più volte messo in luce come anche le armi comuni da sparo, vendute tramite il canale legale, finiscano poi spesso nelle mani di delinquenza organizzata, formazioni terroristiche e bande paramilitari. La necessità, evidenziata dall'analisi, è che le armi comuni da sparo siano equiparate alle armi ad uso militare dal punto di vista delle esportazioni, perché anch'esse possono contribuire a radicalizzare le situazioni di violenza. Alcuni esempi. L'Italia ha fornito armi, proiettili ed equipaggiamento militare di polizia usati per uccidere, ferire e imprigionare arbitrariamente migliaia di manifestanti pacifici in paesi come la Libia, la Tunisia e l'Egitto, e tuttora utilizzati dalle forze di sicurezza in Yemen. Quest'ultimo ha importato dall'Italia una cifra pari a 487.119 euro di armi usate nella repressione governativa delle proteste. La Repubblica Democratica del Congo ha importato munizioni per un valore di 81.152 euro, malgrado l'embargo dell'Unione Europea e dell'ONU in vigore dal 1993. Nel paese, diverse regioni sono ancora teatro di violenze. La Cina, tra il 2009 e il 2010, ha acquistato dall'Italia armi civili, munizioni ed esplosivi per un valore di oltre 3 milioni, in violazione dell'embargo imposto dal Consiglio Europeo nel 1989, in seguito ai fatti di Piazza Tiananmen, che mira proprio a tutelare i diritti umani. L'eco del silenzio. Silenzio. Da www.eilmensile.it. Il treno, un bene comune. 18 gennaio 2012, Dimaso Notarianni. Trenitalia non si occupa di welfare. Così parlò l'amministratore delegato di Trenitalia Moretti, e in queste parole sta tutta l'arroganza di chi è consapevole di vivere in quella che ormai non è più una repubblica, ma una re privata. Eppure, andando sul sito di Trenitalia, si scoprono cose interessanti, ma si devono cercare molto bene. Esiste un accordo tra Stato italiano e l'azienda di Moretti che prevede due tipologie di treni, quelli a mercato e quelli universali. Mentre i primi sono a totale gestione delle ferrovie, quelli universali esistono in base ad un protocollo concordato con lo Stato, sono profumatamente pagati dallo Stato medesimo, cioè da noi cittadini, e servono a garantire quei servizi che il mercato da solo non è in grado di sostenere, tipo l'Unità d'Italia dal punto di vista della mobilità. Nel 2010 lo Stato ha dato a Trenitalia 2,39 miliardi di euro per garantire i servizi universali. Tra questi, come si può leggere anche sul sito di Trenitalia ancora oggi, ci sono i treni notturni. Poi però, andando in stazione o semplicemente sul sito per comprare i biglietti dei treni notturni, si scopre che non ci sono, cancellati definitivamente dallo scorso dicembre. Probabilmente in un periodo in cui il governo era in tutt'altre faccende affaccendato, sulla base di non si capisce quale scelta. L'Italia spaccata in due, con i governatori delle regioni del sud che protestano con il governo, il ministro Passera che non sa bene cosa fare, Monti che promette investimenti e intanto 800 lavoratori mandati a casa da un giorno con l'altro, mentre Trenitalia, utilizzando le infrastrutture, binari, gallerie e stazioni pagate dai cittadini, registra per la prima volta un utile di 32 milioni di netto nel primo semestre dell'anno scorso. E noi, come direbbe Totò, paghiamo. Ma pagano anche e soprattutto i lavoratori, che da 40 giorni sono su una torre per protestare contro i tagli di Moretti e che ci danno una lezione di forza. Stateci voi 40 giorni su una torre di ferro in mezzo ai binari di una grande stazione come Milano a 4 gradi sotto zero, di dignità e di senso dello Stato, perché ci dicono, e dicono inascoltati per adesso anche al presidente Napolitano, che la coesione sociale e l'unità nazionale non sono paroloni di cui ci si riempie la bocca, ma sono questioni su cui si deve lavorare, anche sodo di questi tempi. Non tollerano ad esempio chi prende i soldi e scappa. Quei tre lavoratori stanno facendo una battaglia che dovrebbe essere importante per 50 milioni di italiani. Stanno ancora bene. Ieri li ha visitato una dottoressa di emergency. L'associazione ha garantito ai lavoratori l'assistenza sanitaria, che ha rassicurato sulle loro condizioni di salute. Ma non ne possono più, perché i politici e i sindacalisti li vanno a trovare. Qualcuno si fa pure bello facendo finta di preparar loro i pasti, ma poi, in concreto, non si muove una foglia. E 40 dì e 40 no, come si dice a Milano, sono proprio troppi. Consiglio a tutti coloro che volessero approfondire la pagina Facebook Binario 21 Chiama Italia, di cui vi leggo la descrizione. Cittadini a sostegno dei licenziati dei treni di notte. I lavoratori licenziati dei treni notturni passano giorni e notte alle Addiaccio per sostenere la protesta di Carmine, Giuseppe e Oliviero sulla torre ormai da un mese. Un gelido mese invernale fatto di sole, pioggia, vento sferzante, nebbia, smog e polvere di ferro. Un mese vissuto in cattività, chiusi in una gabbia per difendere il loro diritto al lavoro e il diritto dei cittadini italiani a disporre di un treno diretto notturno. I treni di notte sono un bene comune, un servizio pubblico che unisce l'Italia, un servizio che scorre sui binari pagati negli anni con i soldi dei contribuenti, un bene comune che deve essere ripristinato per mantenere unito il Paese e consentirci di offrire ai viaggiatori la stessa offerta di tutti gli altri Paesi europei. In qualità di cittadini italiani che finanziano Trenitalia attraverso contributi statali, siamo fermamente contrari alla politica commerciale intrapresa dall'azienda, ormai completamente incentrata sull'alta velocità e servizi a 5 stelle, che penalizzano le esigenze di movimento della maggioranza degli italiani. Non abbiamo nulla in contrario a che un soggetto privato offra questo genere di servizi, ma non siamo assolutamente d'accordo a che Trenitalia crei un vuoto nei collegamenti per mettersi in competizioni con altre aziende, mettendo oltretutto sulla strada centinaia di lavoratori e le loro famiglie. I lavoratori sulla torre e i cittadini italiani meritano una risposta urgente a queste istanze. Chiediamo agli iscritti che si compia uno sforzo comune per dare massima visibilità a una protesta che interessa tutti, diffondendo tramite social network, blog e stampa tutte le notizie e il materiale video messo a disposizione dagli attivisti. E con quest'ultimo spunto, anche per questa settimana arrivano i miei saluti e soprattutto l'augurio di frenetiche letture. I contenuti di questa puntata sono disponibili all'indirizzo ecodelsilenzio.blogspot.com. L'eco del silenzio. Un'idea di Lucia Cattarrucci.